Radio 24 Reportage. La Francia al voto, atto primo, di Sergio Nava. Candidati per un posto all'Eliseo. Oggi la Francia vota per il primo turno delle elezioni presidenziali, probabilmente le più anomale della Quinta Repubblica, che ha preso il via nel 58. Una Quinta Repubblica che ha annoverato nomi pesanti della storia francese, quali Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing e François Mitterrand. L'anomalia di queste elezioni si presenta già in partenza. L'attuale presidente socialista Hollande, minato da indici di gradimento in picchiata, ha rinunciato a presentarsi per un secondo mandato. Non era mai successo in 60 anni. La seconda anomalia la fanno intuire i sondaggi, che danno come favoriti due candidati che solo 5 anni fa semplicemente non avrebbero avuto chance. Emmanuel Macron, centrista liberale con radici a sinistra, di cui il movimento En Marche non ha neppure un anno di vita, e la leader dell'estrema destra Marine Le Pen, che ha traghettato il Front National nel mainstream elettorale dopo essere stato per anni un paria, se escludiamo il clamoroso ballottaggio Chirac-Jean-Marie Le Pen del 2002, stravinto proprio da Chirac grazie al cosiddetto fronte repubblicano. Ma quale Francia va oggi al voto? Antonio Villafranca, responsabile programma Europa dell'ISPI. È una Francia sicuramente indebolita dagli anni della crisi, anche se il trend negativo era già visibile prima. Giusto per dare qualche dato, oggi la disoccupazione in Francia è al 10% e ormai da diversi anni la Francia cresce di poco superiore all'1%. In Francia ormai da circa 8 anni hanno un rapporto deficit-PIL, quindi riescono a spendere molto di più dell'Italia, che è ben al di sopra del 3%. Questo ha fatto sì che, ad esempio, durante dallo scoppio della crisi il debito pubblico francese passasse dal 60% al 90%, che è un molto alto, soprattutto se comparato con quella che dovrebbe essere, che è anzi l'altra grande potenza europea, che è la Germania. Quindi è una Francia che si è indebolita notevolmente durante gli ultimi anni. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de notre pays. Emmanuel Macron, neppure 40 anni, è stato senza ombra di dubbio la rivelazione di questa campagna presidenziale. Già ministro dell'economia tra il 2014 e il 2016 con Hollande, ha fondato En Marche, movimento che vedrà il suo battesimo vero e proprio nelle urne alle elezioni legislative di giugno. Fama di riformatore, Macron è sicuramente un politico trasversale per programma. Ancora Antonio Villafranca. Macron, come in realtà altri candidati, si presenta come anti-establishment, come quello che, pur essendo stato ovviamente ex ministro dell'economia sotto Hollande, in realtà va da solo. Le sue posizioni sono posizioni che prendono un po' sia dal programma di sinistra che dal programma di destra. Ha posizioni, diciamo, in genere liberali per quanto riguarda il lavoro, vuole ad esempio maggiore flessibilità riguardo alle leggi sul lavoro e allentare la regola delle 35 ore lavorative, e vuole mantenere l'età pensionistica a 62 anni e vuole prevedere un innalzamento degli investimenti pubblici, 50 miliardi nei prossimi 5 anni, oltre però a dei tagli per 60 miliardi nella spesa pubblica, anche rottamando, come dice, diciamo, un po' provocatoriamente anche lui, 120.000 posti di lavoro nel settore pubblico. Riguardo invece alla proiezione europea della Francia, come sappiamo, lui è comunque un convinto europeista. Je suis une française. Je suis une mère de famille. L'altra grande anomalia di queste elezioni, avviata a bissare il ballottaggio conquistato dal padre 15 anni fa, è la leader del Front National, Marine Le Pen. La Le Pen appare destinata a triplicare i voti ricevuti da lei stessa 5 anni fa, quando i suoi avversari si chiamavano François Hollande e Nicolas Sarkozy. È considerata a Bruxelles la più grande minaccia per la stessa sopravvivenza dell'Unione Europea. Il suo è un programma sicuramente di estrema destra. Ad esempio, mentre la maggior parte dei candidati affermano che le spese militari dovrebbero essere pari al 2% del PIL, lei dice che dovrebbero essere almeno pari al 3%. Nel sociale lei pesca anche che a pie mani, diciamo, da programmi che potremmo definire quasi di estrema sinistra. Vorrebbe abbassare ad esempio l'età di pensionamento da 62 a 60 anni, come propone ad esempio il candidato di estrema sinistra Mélenchon, e ridurre le tasse per i meno abbienti. La sua priorità fondamentale sono i lavoratori francesi e la sicurezza. E in che modo, ad esempio, difenderebbe i lavoratori francesi? Facendo pagare il 10% in più di tasse alle imprese che assumono uno straniero piuttosto che un lavoratore francese, o facendo pagare una sorta di dazio alle imprese francesi che producono all'estero per poi appunto vendere in Francia. In campo europeo, come sappiamo, è su posizioni fortemente euroscettiche. Non solo ritiene un danno Schengen, ritiene un danno la moneta unica, ma vuole anche tenere un referendum per uscire dall'Unione Europea. Dans quelques jours, les Français vont devoir choisir le président de la République. Il trouvera devant lui une situation très difficile. Dai candidati rivelazione a quelli dell'establishment, destra e socialisti, entrambi in clamoroso affanno. Alla fine dello scorso anno, François Fillon, candidato dei Les Républicains, era considerato un predestinato per l'Eliseo. Sconfitto il moderato Juppé alle primarie di novembre, la sua vittoria a maggio appariva scontata. Poi lo scandalo Penelope Gate con i presunti incarichi fittizi pagati con soldi pubblici alla moglie e ai figli, oggetto di indagini della magistratura, lo hanno pesantemente azzoppato, mettendone persino in forse la candidatura. Il suo profilo ancora nelle parole di Antonio Villafranca dell'ISP. Il suo è un programma liberale, liberista, lui vorrebbe totalmente stracciare le 35 ore e lasciare invece che siano le aziende a negoziare gli orari di lavoro e quindi dare molta più flessibilità al mercato del lavoro. Lui, contrariamente ad esempio a quello che dicono nell'estrema sinistra, ma anche contrariamente a quello che dice la Le Pen, alzerebbe l'età di pensionamento, la porterebbe da 62 a 65 anni, mentre per quanto riguarda l'Unione Europea, lui riformerebbe Schengen per aumentarne i controlli e aumenterebbe il peso dell'Eurozona all'interno dell'Unione Europea. In politica estera si caratterizza anche per avere un approccio piuttosto morbido nei confronti della Russia e nei confronti di Putin in particolare. J'ai pas envie d'attiser une des plaies de notre époque, le narcissisme, l'individualisme, la défiance. L'altro candidato dell'establishment è Benoît Hamon, dei socialisti. Ha sì sconfitto il grande favorito alle primarie, l'ex premier Manuel Valls, ma questo non gli ha consentito di prendere il volo nei sondaggi. Anzi, con lui i socialisti si avviano verso una sonora quanto storica batosta. Lui essenzialmente si pone sulla scia proprio di quella che è normalmente la sinistra proprio francese, quindi vorrebbe un salario minimo che all'inizio dovrebbe essere soltanto per gli studenti meno abbienti, per poi essere allargato a tutti i cittadini, e insiste nel dare priorità al made in France e ad esempio dice che lo Stato dovrebbe dare in appalto almeno il 50% alle imprese medio-piccole piuttosto che alle imprese più grandi, ma soprattutto lui vorrebbe del tutto abrogare la riforma del lavoro, peraltro abbastanza parziale, che era riuscita a fare Hollande, oltre a aumentare enormemente la spesa pubblica. J'ai consacré ma vie à une cause, celle du peuple et de la République jusqu'au bout. Gli altri 7 candidati di queste presidenziali sono in realtà riassumibili in uno che si è distinto nei sondaggi proprio in queste ultime settimane di campagna, Jean-Luc Mélenchon, candidato della sinistra radicale con La France Insoumise. Il suo è un programma con forti punti di contatto, soprattutto sull'Europa, con Marine Le Pen, anche se dal lato opposto dello spettro parlamentare. Ancora Antonio Villafranca dell'ISPI. Mélenchon è anch'esso abbastanza euroscettico, lui vorrebbe ridefinire poi quello che è il rapporto che lega la Francia all'Unione Europea e sottoporre il risultato a un referendum. Lui vorrebbe lasciare totalmente la NATO e quindi su questi temi effettivamente è molto vicino alle posizioni della Le Pen. Poi per quanto riguarda il sociale ancora vorrebbe aumentare il salario minimo e abbassare però l'età pensionistica da 62 a 60 anni. Quindi è anche qui una ricetta piuttosto tradizionale che riguarda l'estrema sinistra francese. Il suffit de regarder mon parcours pour savoir qui je suis et quel président je serai. J'ai 59 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et comme des millions de Français, je suis quelqu'un d'origine modeste. Mon parcours professionnel m'a amené dans les allées du pouvoir. Contre tous ces héritiers d'un système qui sont ici et qui n'ont pas voulu prendre le taureau financier par les cornes. Je veux faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts des ouvriers, des employés. Mes chers compatriotes, je suis fils de berger, frère de berger, je l'étais moi-même. Donc moi je suis ouvrier à l'usine Ford à Bordeaux. Et à part Nathalie Arthaud autour de ses pupitres, je crois que je suis le seul à avoir gli altri candidati che state ascoltando in questo mix di voci estrapolate dall'ultimo confronto televisivo a 11 si concentrano soprattutto nelle due ali dello spettro politico, estrema destra e soprattutto estrema sinistra. Tra loro il candidato di Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, più a destra di Fillon, ma moderato rispetto alla Le Pen, François Asselineau per la destra ultranazionalista dell'Unione Popolare Repubblicana, il gollista di sinistra Jacques Cheminade di Solidarietà e Progresso, Nathalie Arthaud dell'estrema sinistra di Lotta Operaia, Jean Lassalle, ex centrista virato poi a sinistra, fino al nuovo partito anticapitalista di Philippe Poutou. Poutou, le cui chance di ballottaggio sono pari a zero, si è però ritagliato una serata di fama televisiva. Vestito con la sua tuta da operaio, si è rifiutato di farsi fotografare con gli altri candidati prima di sparare a zero su Fillon e Le Pen e sulle immunità parlamentari. Noi, quando ci chiama la polizia, non abbiamo l'immunità operaia. Questa la sua frecciata più riuscita. E ora la parola alle urne per il primo round delle elezioni presidenziali francesi. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.